Buongiorno, in diretta dagli studi di Radio 24 e dal Parco di Collodi va ora in onda 1 Nessuno 100.000. In studio Geppetto, Milan Maria Alessandro, Pinocchio, signor Bonetti Leonardo Manera, in regia il gatto Peter Pescapè, in redazione la volpe Lorenzino Nespoli, la fatina Elisabetta Fusconi e il grillo parlante Miria Lucchetti. Buon ascolto e buon divertimento a tutti. Uno, nessuno, 100.000 di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui, cari ascoltatori, tutto giusto quello che dice Anacleto nella presigla del lunedì, tranne oggi c'è Pietruzzo La Corte che torna con noi in regia. Pietruzzo, di solito qua si mettono gli applausi tecnici, ma lui è uno modesto e quindi niente. Con Pietro La Corte in regia ci siamo. 9 minuti, signori. Oggi inizia una settimana importante. È la 12ª settimana decisiva per la riforma elettorale. Mica vogliamo farla passare così. Tra l'altro vi dico solo questo: sapete oggi come inizia? Ho letto pagina 2 del Corriere della Sera. È una settimana importante questa, si vota per il MES, ci sono fibrillazioni, altro termine insopportabile per quel che mi riguarda. Sapete come inizia l'articolo di pagina 2 del Corriere della Sera? Si apre una settimana decisiva per la tenuta della maggioranza. Io, scusate, un po' sorriso. Siamo alla prima settimana. No, niente, lasciamo stare. Okay, trova lo spazio. Che succede? Trova Rebic. Dentro Castigliano! Appena entrato! Ah. Al primo pallone toccato! Samu Castigliano! Vabbè, dai. Calmi e primi. Tranquilli. Oggi non parlerò della Prosesta, qui va il mio grande abbraccio e affetto, ma ieri abbiamo purtroppo subito una sconfitta al primo set a Piacenza per 6-0. Non importa, ci risolleveremo. 9:10, siamo qui, 800 24 00 24, oppure se volete scriverci 349 238 6666, abbiamo anche la mail, 100milan@radio24.it. Ale. I will not be easy and it will not be easy. Rock duro. Basta metallari. Ma c'è gente che veramente ti strappa gli schiaffi dalle mani. E chissà chi è. Purtroppo, signori, devo registrare che da 98 giorni ci sono 18 pescatori partiti a Mazara del Vallo, da Mazara del Vallo, e sono detenuti a Bengasi. È incredibile questa vicenda. Incredibile. Incredibile il silenzio. Oggi un'intervista a Di Maio di un'intera pagina su, credo, Repubblica, per parlare della possibile crisi di governo. Per carità, è giusto mantenere le trattative nel silenzio. Oh ragazzi, ma sono 98 giorni di nulla, di nulla. E poi il silenzio lo devono tenere le istituzioni per lavorare giustamente sotto traccia, ma non è che i giornali sono obbligati a tenere il silenzio. Allora, se non ve ne frega nulla, frega la BBC, che dedica sempre dei servizi accurati. Alla BBC interessa, e alla nostra stampa no. Ma che dobbiamo dire? È così. A Allora, signori, ho sentito poco fa la rappresentante sindacale CGIL degli statali e il pubblico impiego da Simone Spezia. Io non voglio assolutamente creare, non deve trasformarsi tutto questo in una battaglia tra lavoratori. Siamo tutti italiani sulla stessa barca, barca un po' scricchiolante, barca un po' complicata per quel che riguarda il lavoro. Certo, vedere uno sciopero degli statali e il pubblico impiego il 9 dicembre, poi si dice no, non è vero che c'è il ponte perché oggi si lavora, sì, si lavora, però l'8 è festa, però il 9 giustamente c'è lo sciopero, poi uno con lo sciopero perde la retribuzione, quindi non è... però ecco, una data un po' strana. Quindi non voglio arrivare, voglio cercare di capire se ci chiamate all'800240024 se lavorate nel pubblico impiego. È vero, è da un anno che il governo non ascolta, anche se pare adesso ci siano degli stanziamenti possibili per aumentare nel rinnovo del contratto il vostro stipendio. Saranno sempre quei 10 euro, 20 euro, non pensiate a cifre più alte. Certo, quando uno legge su Repubblica dall'altra parte quando ci sarà lo sblocco dei licenziamenti a marzo, rischiano 1 milione di italiani il posto di lavoro. Oggi Valentina Conte su Repubblica, nel 2021 a rischio 1 milione di posti, uno si pone un po' una questione così di solidarietà generale nel paese, di chi sono i tutelati e garantiti per sempre e quelli che no. Quindi, per carità, non creiamo la battaglia, tu sei un farabutto perché hai il posto garantito, io cosa dovrei fare, questo è il peggio del peggio, questo forse è quello che vogliono altri. Invece no, cerchiamo un discorso più completo e serio. Però, come dire, un po' stona, cioè se io sono una partita IVA, se io sono un dipendente che rischia il posto di lavoro, se sono un precario, se sono uno che ha dei contratti rinnovati così... vedere qualcuno che sciopera legittimamente, magari dal proprio punto di vista, solo dal proprio punto di vista, sciopera per il rinnovo contrattuale, è un pochino di fastidio, dice, me lo dà a dire, ma a me non pensi? Dopodiché c'è il tema del coronavirus, non partiremo da qui con i primi ospiti, ma vi voglio far sentire qualcosa. Allora, io non lo so, ve le sottopongo così, poi voi dite, ormai siamo entrati in una situazione in cui sono normali alcuni termini, una vita che fino a 9 mesi fa pareva impensabile. Allora, Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, il paese si decolora. Cioè, perché c'è questa storia rosso, giallo, arancione, mamma mia, ragazzi. Il nostro paese si sta lentamente decolorando, ovvero sia, vedete che il rosso intenso comincia a trasformarsi progressivamente in arancione e questo riflette in qualche modo il fatto che un po' in tutti i paesi... Ci decoloriamo. Io ho pensato, fino a 9 mesi fa uno pensava magari a una tinta dei capelli, adesso è normale così parlare di decolorare. Poi c'è Crisanti è di quelli, quando avevamo fatto anche di recente la classifica dei virologi, di quelli più rigorosi a dire attenzione, l'allarme. Io dico però, il concetto di come la comunicazione incide sulla psicologia delle persone, questa cosa proprio non la vogliono capire. Ti raccontano tutti che sono aumentate le ansie, lo stress, le preoccupazioni, l'uso degli psicofarmaci, eppure niente. La narrazione è sempre attenti, il memento mori, attenzione. Allora, Crisanti, siamo già preoccupati per il Natale, cosa succederà a Natale, ma Crisanti ci dice che... E la sfida vera sarà dopo Natale, guardi, perché dopo, con questi numeri non penso che potremmo riprendere una vita normale. Basta. Segnatevelo, non penso che potremo riprendere una vita normale. E uno già dice, porca miseria. Già il Natale così, le tensioni, vabbè, e quest'anno, e qua, e vabbè, e quest'anno il Natale è andato. Dopo Natale sarà la vera sfida e con questi numeri non potremo riprendere una vita normale. Uno dice, vabbè ragazzi, ricordati che devi morire. Amici ascoltatori, allegria! Ecco, ci vorrebbe più un ritorno di Mike, così già mi sento meglio. Pietro, tu non ci credi, il Covid c'è sempre, ma già mi sento un pochino meglio. Oh, me lo fai risentire? Amici ascoltatori, allegria! Non vi sentite già un pochino meglio? La situazione è la stessa delle 9 e 16 minuti, sono le 9 e 17, ma psicologicamente io affronto già la giornata in modo un po' diverso. Vi faccio sentire anche la disfida degli spostamenti per Natale. Due governatori, Fontana, è sbagliato vietare gli spostamenti tra comuni. Io non sono sicuramente un liberi tutti, però lei mi spieghi il ragionamento che sta alla base di una scelta per cui se i miei genitori abitano nel mio stesso comune posso andare a trovarli. Se i miei genitori abitano a 500 metri da me, ma in un comune diverso, io non posso andare. Vabbè, anche Toti, allora, anche Toti, così, vabbè, dai, facciamo sentire anche Toti velocemente, Liguria. Un'uniformità di trattamento tra chi vive a Genova, che lei conosce, più di 30 chilometri, per cui io se vado a trovare mia zia da Nervi a Voltri non avrò problemi. Era 25, Fazio, Se vado, lei mi pare abbia una casa dal Bissolo giù di lì, se vado tra le due al Bissolo, che sono 800 metri e poche migliaia di abitanti, vengo sanzionato addirittura più. Secondo quello. Non ne usciremo più. Allora, signori, io voglio partire però da altro. Tra l'altro vi voglio far sentire un audio, c'è questa rissa che c'è stata a Roma al Pincio che fa molto discutere questi giovani, adesso con le analisi sociologiche, psicologiche, annoiati, senza valori, io non lo so adesso, dare anche queste patenti e queste bollarli così, non lo so chi siano questi giovani che si danno appuntamento online per fare le risse, comunque al Pincio questo è successo. Cioè guarda, ma sei impazziti fragili. Senza mascherine, vabbè, ma questo è come dire, era abbastanza ovvio. Uno che si dà, uno che si prende la briga di darsi l'appuntamento online sui social per fare una rissa, non credo che la prima preoccupazione sia mi porto la mascherina. Comunque, perché voglio partire da qui? Perché oggi vogliamo parlare di una persona che forse è stata dimenticata troppo in fretta. Willy Monteiro Duarte. Vi ricordate questo nome? Quel sorriso bellissimo? Era il 6 settembre. Aveva 21 anni Willy ed è stato ucciso in una rissa scattata per motivi futili, poi per carità c'è l'inchiesta giudiziaria, si vedrà. E tra l'altro Willy non c'entrava nulla, è passato di lì, ha visto un compagno di scuola in difficoltà ed è arrivato lì per cercare di dividere le persone, è finito ammazzato. Ebbene, di questa vicenda non se ne parla più, la retorica italiana, non dimenticheremo Willy, cambieremo le leggi con Willy, e poi da quella rissa partita così lui ci ha rimesso la vita e non è che se ne parli più tanto di questi tempi. Allora io voglio partire da qui invece in ricordo di Willy e voglio salutare quello che era il suo più caro amico che era lì quella sera, Samuele Cenciarelli, buongiorno. Salve, buongiorno. Lei Samuele non solo era un grande amico di Willy, ma in una recente dichiarazione ha detto: davvero avrei potuto essere io al suo posto. La sente dentro di sé questa sensazione? Sì, ogni giorno. E come si vive con questo tipo di sensazione? Devi essere forte, devi cercare di andare avanti in qualsiasi modo, sia per te, sia per Willy, per le persone che ti circondano. Io credo che la cosa più incredibile è che il paese un po' si sia dimenticato di Willy Monteiro Duarte. Si è fatta tanta retorica, anche si è detto molto di Willy, di quello che è successo. Perché non se ne parla più secondo lei? Non saprei, queste sono cose che succedono, non dico tutti i giorni, ma quasi, e vengono sempre dimenticate dopo un mese, dopo due mesi, anche se stanno molto scalpore, quindi penso sia una cosa normale a livello mediatico, però l'importante è che noi amici, noi persone che che lo conoscevamo, non lo dimentichiamo. Questo sì. E si è anche scritto molto di questo ragazzo da parte di persone che invece non lo conoscevano. Lei, che lo conosceva molto bene, ci può spiegare che ragazzo era Willy? Sì, era un ragazzo gentile, solare, sempre disponibile, lavoratore, aveva sogni come tutti i ragazzi di 21 anni, come tutti quanti noi, e alla fine sono stati stroncati da quello che è successo, ma l'importante è ricordarlo, perché fino a quando lo ricordiamo lui è con noi. Sa che una delle dichiarazioni di molte persone è, dopo aver manifestato ovviamente tanta solidarietà, il retropensiero di molti è stato: ma chi gliel'ha fatto fare? Cioè, nel senso, siamo un paese in cui si è anche abituati a volte a voltare la faccia, a fare finta di nulla. Ecco, lei questa domanda se l'è posta tante volte: ma chi gliel'ha fatto fare a Willy di mettersi in una situazione lì, a cercare di sedare una situazione nella quale lui non c'entrava nulla? Non me la sono posta, perché Willy, il suo carattere, non l'ha fatto con malizia, anzi è venuto sicuramente dal cuore fare una cosa del genere, anche perché, avendo visto un amico in difficoltà, penso non è che ci ha pensato due volte a fare quello che ha fatto. Senta, io saluto con lei il suo avvocato, Tommaso Cenciarelli. Buongiorno avvocato, grazie di essere qui. Buongiorno. Dal punto di vista legale, ci vuole spiegare qual è la situazione in questo momento? Perché ovviamente si sono spenti i riflettori su questa vicenda dal punto di vista giudiziario, e vorremmo capire a che punto siamo. Sì, guardi, ad oggi ci sono ancora le indagini aperte, quindi abbiamo mantenuto anche un profilo basso volutamente per ovvie motivazioni. C'è un processo da fare, non sarà un processo facile. Comunque ho ascoltato un pochino quello che Samuele ha detto, che un pochino il clamore mediatico si è affievolito, si è assopito. Io una cosa che chiedo a tutti voi, che comunque sia, parlate agli italiani, vi ringrazio per questa opportunità, per mantenere alta l'attenzione mediatica su questa vicenda, terribile vicenda, ma come questa moltissime altre che purtroppo ne accadono frequentemente. Ma anche c'è necessità di sollecitare le istituzioni nazionali, questo non mi stancherò mai di dirlo, a mettere mano all'impianto normativo, al sistema normativo, che è un po' carente soprattutto nella fase di tutela e prevenzione di queste situazioni, anche se non si potranno mai ridurre a zero. Anche perché, avvocato, non è purtroppo, come dice lei, l'unica persona, l'unico ragazzo, Willy, che ha perso la vita per delle vicende che iniziano magari per dei diverbi stupidi e poi finiscono così. Assolutamente, magari uno sguardo ad una ragazza, una parola messa male o interpretata male, e poi purtroppo ci ritroviamo a piangere tantissimi ragazzi nel fine settimana, perché poi questi fatti si concentrano nel fine settimana, sommandosi a tutte le altre problematiche legate alla circolazione stradale, all'abuso delle droghe. Insomma, sapete benissimo in che condizioni è la nostra società, purtroppo. Questo è sicuramente. Senta, torno un attimo da Samuele, perché si è anche molto parlato di possibile aggravante di razzismo. Lei ha fatto notare una cosa, ha detto: sicuramente nei miei confronti, cioè nei suoi confronti, le persone che hanno aggredito si sono fermate a un certo punto, nei confronti di Willy no. Questo le ha fatto fare qualche considerazione riguardo al possibile razzismo? Sì, ecco, molto probabilmente, ma non saprei. Sono dell'idea che chiunque si fosse trovato al suo posto avrebbe fatto la stessa fine, perché è stato veramente un accanimento non spiegato. Non saprei. Non saprei proprio. Qual era il sogno che aveva Willy? Sappiamo che voleva, come dire, studiava l'alberghiero, voleva in qualche modo andare, stare in quel settore, lavorare in quel settore, ma aveva un sogno, qualcosa di cui parlavate? Sì, sicuramente uno di quelli era diventare un grande cuoco, gestire qualcosa di suo, ecco, cose legate alla cucina sempre. In ambito lavorativo questo qui era il suo sogno, lo facciamo molto volentieri. Secondo lei esiste una giustizia? Cioè che cosa si aspetta dal processo, al di là delle possibili condanne, che cosa si aspetta dallo Stato italiano, da quello che potrà uscire dalle aule giudiziarie? Ecco, come ha detto Tommaso, che cambi qualcosa anche a livello giuridico, perché cose di questo genere devono essere condannate da subito e non devono ripetersi, non devono succedere, non ha senso che succedano. Lei avvocato parla anche magari di aumentare le pene, da questo punto di vista potrebbe essere una soluzione, spesso ci si rifugia dietro questa formula, bisogna aumentare le pene, no? Guardi, non sempre l'aumento della pena riduce a zero la commissione di ulteriori reati. Quello che mi sta chiedendo lei è quello che è venuto meno negli anni, è la cosiddetta specializzazione delle norme penali. Purtroppo si è diffuso nella nostra società un senso di impunità, cioè c'è un'impunità diffusa, dice non fa niente, tanto non mi fanno nulla, perché negli anni si è assistito anche a una depenalizzazione sistematica di molte fattispecie di reato. Però quello che c'è bisogno è non solo aumentare le pene, non sarebbe una soluzione, cioè non sarebbe la soluzione principale, ma c'è bisogno di tutta una serie di misure, soprattutto, come le dicevo prima, nella fase preventiva. Cioè queste persone avevano diverse querele, diversi procedimenti penali in atto, però non avendo una condanna passata in giudicato stavano tranquillamente liberi, a piede libero. Questo è quello che vorrei sottolineare e porre l'attenzione anche delle istituzioni nazionali affrontare dei rimedi. Ecco, a proposito appunto di queste persone, io vorrei concludere su di loro con Samuele. So che su questo ha già rilasciato una dichiarazione, cioè che cosa prova nei confronti delle persone che in questo momento sono in carcere e presumibilmente subiranno un processo e forse una condanna per quello che è successo, Samuele? Tanta rabbia e anche disprezzo. È vero che lei ha detto vorrei che venisse in qualche modo disegnata nella loro cella il volto di Willy, in modo che lo possano guardare tutto il giorno? Sì, l'ho detto, in modo che lo possano guardare ogni giorno e se ne si rendano conto di quello che ci hanno tolto. Io vi ringrazio, ringrazio Samuele Cenciarelli, amico di Willy, e il suo avvocato Tommaso Cenciarelli, hanno lo stesso cognome ma non sono parenti, questo lo dico solo per la cronaca, per essere stati qui a ricordare Willy Montero Duarte, ucciso il 6 settembre 2020. È il momento di andare un attimo in pubblicità, poi la scuola, avremo con noi il professor Roberto Perotti e abbiamo Maria Piera Ceci che si accomoda in studio. Notizie dall'Ascoli. Buongiorno. Non mi sono informata. Eccola, la lasciamo stare. La tifosa dell'Ascoli inutile, dai, pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Rock durissimo. Quando sento Crisanti mi viene voglia di toccarmi Maroni, Muric. Sorvolo sull'atavica questione pubblico-privato. Ma scusa Milan, ma Ponte de che non si può andare da nessuna parte? Can't fight this, can't fight. Milan, scusa, lo scontro di lavoratori lo vogliono chi? I poteri forti? Sei diventato un complottista. Milan, grande Milan. Benvenuta Maria Pia Ceci in questa gabbia di matti. Hai visto matti che abbiamo fatto noi, però, bene a tenere questa sigla, sì, Alessandro, sì, sì. Tu non ci hai creduto. Bene, bene, allora si riprende ad andare a scuola l'anno prossimo. 7 gennaio, sì. Tutti gli alunni delle scuole superiori al 75% della didattica a distanza tornano a scuola. Questa è una buona notizia. Quindi già tutti no. Il 75%. No, ci tornano tutti, ma al 75% della didattica a distanza. Non è che ci torna il 75% dei ragazzi, il 25% a casa. Però, insomma, da qui al 7 gennaio, caro Alessandro, come tu ben sai, c'è poco tempo e soprattutto c'è un tavolo che a me fa un po' paura, perché che cosa è stato deciso? Per riaprire il 7 di gennaio bisogna, indovina, risolvere quale problema, non ne abbiamo mai parlato. Forse quello dei trasporti. Ma va, un problema nuovo, quindi essendo un problema nuovo va affrontato adesso. E quindi che cosa è stato deciso? Si è istituito un tavolo presso le prefetture, si è parlato molto, no? Dei prefetti che hanno preso un po', sì, in mano la cosa, io sono anche contenta, speriamo bene, ma questi tavoli di coordinamento sono un po' complicati, pensa che ci stanno dentro i presidenti delle province, il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali, il Ministero dell'Istruzione, i rappresentanti del Ministero dei Trasporti, delle regioni, i rappresentanti del trasporto pubblico. Hai mai visto una cosa non complicata in Italia? No. Allora, a questo infatti, sembra la task force quella per il recovery plan. Quindi questo che cosa vuol dire? Che parleranno, si incontreranno, eccetera, eccetera, per organizzare questi trasporti. Nel frattempo i presidi stanno richiedendo agli studenti come vanno a scuola, con che mezzo, l'hanno già fatto 2-3 volte, sempre con quei mezzi vanno a scuola i ragazzi. E insomma, di fatto mi sembra una macchina un po' farraginosa. Ecco, io non sono ottimista perché se non ce l'hanno fatta a giugno, non ce l'hanno fatta quindi alla fine della prima ondata, non ce l'hanno fatta per la riapertura a settembre, non vedo perché ce la debbano perché fare in 20 giorni. Accogliamo così l'economista Roberto Perotti. Buongiorno, professore. Buongiorno. Insegna la Bocconi, ma buongiorno. È stato anche, come dire, nella task force della spending review, insomma una carriera. Lei la conosce la burocrazia, le sembra che quello che racconta Maria Piera Ceci sia proprio emblematico di come si voglia far ripartire la scuola? Sì, bisogna anche dire che non è, oggettivamente non è facile. Non vorrei essere né al posto del ministro Azzolina né al posto delle varie autorità provinciali che devono far ripartire le scuole. Oggettivamente sì, non è facile. Non è facile, Perotti, però sono mesi che parliamo della stessa cosa. E soprattutto, come anche lei ha fatto ben notare in un articolo che ha fatto molto discutere in questi giorni, se ce l'hanno fatta gli altri paesi, perché noi non ce la facciamo? Nel senso che l'Italia, come sappiamo, ha lasciato a casa i ragazzi per 105 giorni. Dico ha lasciato, dando per scontato che il 7 tornino, ma poi bisognerà vedere se questo accadrà. Con un record per la Campania, che fra il 5 marzo e il 7 di gennaio sarà stata a casa su 300 giorni, sarà andata a scuola 20 giorni. Allora, se gli altri ce l'hanno fatta, perché noi no? Sì, sì, questa è una buona domanda. Diciamo, noi siamo stati più colpiti dalla pandemia degli altri paesi, quindi c'è stato anche questo fattore, però rimane una buona domanda. Rimane anche il fatto che purtroppo rispetto ad alcuni altri paesi, non a tutti, ma ad alcuni altri paesi noi abbiamo raccolto meno dati, quindi oggettivamente noi non sappiamo se le scuole sono una fonte di contagi o no. L'unico modo per farlo era fare i tracciamenti un po' meglio, adesso ormai non si può più fare perché ci sono troppi contagi, e raccogliere più dati. La Gran Bretagna, che come sappiamo ha avuto un atteggiamento un po' cavalleresco nei confronti della pandemia, tuttavia ha raccolto e sta raccogliendo dati sulle scuole disaggregati, enormemente più ricchi di quello che hanno raccolto in Italia, che peraltro sembra che quelli raccolti in Italia non siano neanche poi stati passati al Ministero dell'Istruzione, e da qui alle varie autorità. Quindi, perché il problema di fatto del nostro paese è stato questo, uno dei problemi, ma diciamo il primo, è quello che non si sa di fatto quanti contagi si siano verificati a scuola. Che è un po' un problema principe, no? Perché sì, se non sappiamo se quello sì, è il posto dove sì, i ragazzi si contagiano, non sappiamo poi come procedere con tutte le altre politiche. Sì, recentemente sono usciti dei dati non completi sul numero di contagi, sì, sul numero di contagi nelle scuole. Sono circa un terzo delle scuole, non si capisce perché, però anche lì, se non si capisce se l'incidenza è maggiore rispetto alla popolazione dello stesso sesso e della stessa classe di età, e questo noi non lo sappiamo, non sono dati utili ma non utilissimi, diciamo, ecco, non però per colpa di Wire, un aspetto, no, certo, un aspetto di questa analisi che voi avete pubblicato, lei con Tito Boeri su Repubblica, è questo: uno studio della scuola primaria in Olanda arriva a certificare questo. Quando c'è la DAD, chiamiamolo, la scuola a distanza, gli studenti che peggiorano il proprio livello di apprendimento sono quelli che fanno parte di famiglie con genitori meno istruiti. Questo è un punto centrale. L'aumento delle diseguaglianze, come si suol sì, dire. Ecco, un problema anche da noi, perché in realtà i più fragili ce li stiamo perdendo, i ragazzi più fragili. Sì, su questo non c'è alcun dubbio, cioè sul fatto che la scuola a distanza abbia un impatto più forte sulle classi sociali più svantaggiate, non c'è il minimo dubbio. Questo è vero in altri paesi, sospetto che sia ancora più vero in Italia, dove diciamo c'è una grossa fetta di popolazione, soprattutto in alcune zone d'Italia, nelle periferie, in alcune zone d'Italia, che è oggettivamente non in grado di sostenere i figli a scuola, a casa. Così aumentano le disuguaglianze, che poi sono disuguaglianze sociali, lavorative, professionali, che si porteranno avanti nella vita. Alessandro, mi ha colpito una preside napoletana che ho sentito in TV, in televisione, che diceva il 60% dei bambini, un insegnante di una scuola primaria, magari la sentiremo, il 60% dei bambini io l'ho perso, è scomparso, cioè il 60%. Alle elementari, no? Sì, su questo non c'è alcun dubbio, questo è il motivo. All'università, per esempio, io insegno all'università, secondo me il problema è molto minore, perché in realtà alcuni aspetti dell'insegnamento a distanza sono positivi, come hanno riconosciuto gli stessi studenti, ma nelle scuole elementari, medie e superiori non c'è alcun dubbio che l'insegnamento a distanza abbia effetti negativi, soprattutto sui classi più disagiati. Eppure oggi Ilvo Diamanti, lui fa un sondaggio imprescindibile ogni lunedì su Repubblica, e dice certifica che il 64% degli italiani sentiti sono favorevoli alla scuola a distanza, 52% dicono è positivo, il 12% molto positiva. Io non lo so, ovviamente, capire. Sì, perché ci sono due questioni da mettere sul piatto di bilancio: da una parte la percezione della sicurezza, la paura, e dall'altro, certo, la paura, e dall'altro gli effetti sull'apprendimento dei ragazzi. Immagino che quel 64% sia quello che è meno impattato dalla scuola a distanza, che riesce a seguire i figli. Sì, o forse, non ha figli, no, oppure ha figli molto bravi. O forse sono un po' con lungimiranti. Ieri mi ha colpito De Bortoli, Ferruccio De Bortoli, sul Corriere della Sera, prendendo spunto anche dalla sua analisi, ha detto: se la scuola fosse un'azienda, se la potessimo concretizzare con i numeri di un'azienda, la perdita di PIL, la perdita di fatturato, forse ce ne occuperemmo in modo diverso. Una percezione diversa. Che ne pensa Perotti? Pur essendo un economista, diciamo che l'ultima cosa che considererei, se proprio devo essere messo alle strette, l'ultima cosa che considererei come un'azienda è la scuola. Appunto. Vabbè, questo l'ha detto anche Miele, certo. De Bortoli ha detto: non è che c'è. Non è un'azienda, ovviamente i fattori sono tanti, però se si potesse paragonare come perdita, quindi complessiva, in realtà avremo un atteggiamento diverso, ce ne occuperemmo di più, e questo è molto vero. Diciamo, io ripeto che secondo me non è facile, cioè l'Italia è stata molto colpita dalla pandemia, a un certo punto è stato il paese europeo più colpito dalla pandemia, diciamo chiudere la scuola anche in assenza di dati, in assenza di precedenti, all'epoca insomma non si sapeva niente, adesso non è che si sappia molto di più, ma all'epoca proprio non si sapeva niente. Secondo me è stata una reazione normale, forse anche giusta, Adesso ne sappiamo qualcosa di più, però ripeto, ancora non è facile perché insomma c'è ancora la paura, non è che sia tutto risolto il vaccino, eccetera. Ma lei che propone Perotti, perché fa delle proposte precise? Questa è una buona domanda. Io non ho proposte, purtroppo non ho proposte concrete. Secondo me la prima cosa da fare è cercare di capire cosa succede effettivamente, cosa che secondo me purtroppo dati. Neanche l'Istituto Superiore di Sanità. Quindi dati, prima cosa, e poi partire dai dati. Dopo accertarsi se effettivamente nelle scuole elementari e medie ci sono focolai forti, perché non basta i dati aggregati per comuni, bisogna capire se nelle singole scuole ci sono focolai, sono a livello di figli, di ragazzi e bambine, sono a livello del personale e degli insegnanti. E dopo c'è la questione dei trasporti, però la questione dei trasporti non è facile. Io non sono un trasportista, però da quel che si capisce anche in Milano, la città di Milano, nelle ore di punta al mattino tra le 8 e le 9, da quel che ho capito e che ho letto, non potrebbe sopportare più di un centinaio di assolutamente autobus. Però insomma questo si sa da un po'. Grazie professor Perotti per essere stato qui con noi, cara Piera. Ciao, ci troviamo lunedì prossimo. Magari parleremo già dei risultati di questi tavoli. Vedremo. Andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma le province non erano abolite? O mi sbaglio? In Svezia mia figlia che sta studiando lì, quarto superiore, è in DAD. E infatti all'estero dove hanno riaperto poi hanno chiuso la scuola. Ma qualunquisti, ciao . Manera fantastico. Eccolo qua! Con la sua sigla. Buongiorno. Personale, Leonardo Manera. Come stai? Ho ascoltato la vostra intervista, ho sentito che avete fatto delle buone domande. Ogni tanto l'ospite diceva, questa è una buona domanda. Le risposte non ho capito esattamente, però ho capito che avete fatto delle buone domande. Va bene, noi siamo stati promossi. È una buona domanda. Sì, va bene, come stai? È una buona giornata per te, Leo? È una buona giornata. Meravigliosa, sì, certo, come sempre. Sant'Ambrogio, va bene, dai. Prego! Faccio adesso. Vi ricordate i bei tempi andati di qualche anno fa, quando ancora non c'era il Covid? Bene, allora una delle risposte più utilizzate quando veniva mossa qualche critica a qualche politico non del Partito Democratico, la risposta più utilizzata era «E allora il PD?». E allora il PD era la frase magica che poteva mettere a tacere qualsiasi discussione. Per esempio, un esponente dei 5 Stelle non ha rimborsato al partito quanto avrebbe dovuto? «E allora il PD?». Qualcuno ha cercato di inserire qualche amico in un potente consiglio di amministrazione? E allora il PD? Babbo Natale quest'anno non ha portato tutti i regali richiesti? E allora il PD? Poi si sa, i tempi cambiano, i nemici diventano amici, quasi sodali, e allora le frasi di un tempo cadono nel dimenticatoio. Però sentivamo la mancanza di una frase che potesse troncare ogni discussione, perché quelle frasi rappresentano il potere magico della semplificazione che a noi italiani fa sempre molto comodo, essendo abituati a vedere il mondo in bianco e nero senza nessuna sfumatura di grigio alla quale semmai riserviamo le nostre fantasie erotiche. Ebbene, il Covid, che pure ha portato dolore e sofferenza e moltissime privazioni delle libertà personali, ha però almeno il privilegio, il pregio di averci regalato un paio di quelle espressioni che servono a troncare sul nascere ogni discussione. Le frasi magiche sono «vai a fare un giro nelle terapie intensive» oppure «vallo a dire a Bergamo». Ora, se durante una qualsiasi conversazione qualcuno si permette, anche a bassa voce, in modo educato, di sollevare qualche perplessità sulla situazione, sulla gestione del Covid, l'interlocutore che ha altre questioni a sbrigare, ha a sua disposizione almeno quelle due frasi per non perdere tempo e proseguire la sua giornata. Ad esempio, si può capitare di ascoltare conversazioni di questo tipo. Per ragazzi che non stanno andando a scuola è un problema studiare con la didattica a distanza. Vallo a dire a Bergamo. Oppure, mai avrei pensato di non potermi spostare da un comune all'altro. Ah sì? Vai a fare un giro nelle terapie intensive. Basta, stop, finita. Non si può continuare a parlare con persone che rispondono così e che tra l'altro pensano di esserne uscite con l'argomento decisivo, quello che non ammette repliche e ti fa mettere al collo la medaglietta d'oro del cittadino responsabile. Ma è così, davvero è così, davvero chi risponde così merita la patente di cittadino responsabile? E non è ugualmente responsabile chi invece cerca di interrogarsi sommessamente sulla situazione che stiamo vivendo? Ringraziamo allora il Covid che ha inserito nei nostri dialoghi questa espressione così decisiva, così tranchant, oltre a quella principe che vale più di tutte le altre e che è la seguente. Sei un virologo? Ora, visto che i virologi in questi mesi hanno detto tutto il contrario di tutto, la domanda «Sei un virologo?», di solito posta in modo un po' aggressivo, non dovrebbe avere un così alto valore, invece viene utilizzata normalmente per sminuire in modo definitivo l'avversario. Alcuni poi li ho sentiti anche fare la tripletta. Vado a dire a Bergamo, vado a dire a Bergamo, sei un virologo. Vado a dire a Bergamo, sei un virologo, vai a fare un giro di terapie intensive. Tripletta alla quale, cercando di limitare i danni, non ho potuto che rispondere con un «e allora il PD?». Ma sembrava sembrava un'espressione ormai inutile e superata dalle ancora più semplicistiche frasi ad effetto da cittadini responsabili e zelanti al tempo del Covid. La tripletta, a proposito di tripletta, ma questo Milan, Leonardo, che è l'unica cosa che ti rende veramente, è questo Milan. Mi solleva un po' la vita in questo, siamo lì, manteniamo le distanze, più 5, ecco, Castiglieco entra e fa subito gol, ma sì, sembrano i tempi d'oro. Facciamo noi il distanziamento fisico con gli altri, guarda qua, grandioso Manera, mitico Manera, caro, e allora il PD? Va bene. Caro Leonardo, la prima ora di Uno Nessuno 100.000 finisce qui, la seconda ora avremo una sorpresa incredibile, cioè i nostri ascoltatori secondo me, ma non possiamo dire granché, Beh, ci mancherebbe. C'è Castiglieco no. in diretta, sì. No. Non c'è Castiglieco. Meglio, molto meglio. Non c'è Castiglieco, però potremmo chiedere all'ospite che verrà, che ne pensa di Castiglieco, mettiamola così do già un indizio, no? Che è una donna, mettiamola un po' in difficoltà sul calcio, ci stai, chiediamo due pareri sul calcio, è sempre stata molto molto ferrata sul tema, proviamo dai, tanto giornale radio. Tutti mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Uno, nessuno, 100.000. Basta metallari! L'epifania la DAD se la porta via. Caro Leonardo, ti sei dimenticato anche di un vecchio tormentone. E allora i Marò? Effettivamente, c'era anche quello, Marò. Quanto è andata avanti la questione Marò? 3 anni forse? Forse 2, non lo so. Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Intanto c'è Anna che ci chiama da Brescia, ma che ci aveva già chiamato, credo. Buongiorno Anna, come sta? Buongiorno Milan, buongiorno Manera. Beh, come stiamo? Non sono così accorata l'altra volta, perché allora erano quasi 5 mesi che non vedevamo nostro figlio Gianluca. Ecco, spieghiamolo bene agli ascoltatori. Anna ci aveva chiamato perché ha un figlio disabile che è in una struttura. E l'altra volta ci aveva chiamato nell'altro lockdown, diciamo, e non lo vedeva, non l'ha visto per 5 mesi. Ce ne eravamo occupati, avevamo chiamato anche il direttore della residenza sanitaria. Esatto. Come va adesso? Come va? Va che il percorso, grazie anche alla vostra chiamata, ma forse grazie anche a qualche d'un altro, all'epoca la forzatura è andata bene perché abbiamo potuto vederli, ma facevano ai nostri ragazzi un tampone al venerdì e un tampone al lunedì prima del rientro, quindi Gianluca ha fatto quasi 12 tamponi per stare a casa a settimane alterne, qualche giorno diciamo. Però poi quando rientrava, nonostante il tampone fosse negativo, perché noi ce ne guardiamo bene da andare in mezzo alla gente per non contaminarci, lo tenevano 14 giorni in preisolamento, diciamo, stava insieme ai suoi compagni, però non poteva uscire, non poteva fare niente. Sì. Adesso ormai siamo arrivati a questa situazione che io quando sento la televisione dire che non può spostare l'orario della messa, non fare il cenone, non fare... ci viene da piangere, non da ridere. Perché voi dite, comunque, voi non riuscite neanche a salutare il vostro Gianluca. Ma sì, perché adesso ci permettono di vederlo tramite un vetro, però e sicuramente questa telefonata non sarà gradita a qualcuno, però non si riesce a capire che i nostri disabili, Gianluca è un disabile mentale, io lo guardo negli occhi e vedo che è felice perché gli porto la torta, ma lui ha bisogno di tornare a casa, di abbracciare la mamma, di vedere le sue cose, di dormire nel suo letto qualche giorno. E praticamente adesso hanno chiuso un mese fa le porte della residenza, li possiamo vedere attraverso un vetro una volta a settimana, a rotazione tutte le famiglie. Però non si sa, non abbiamo neanche la più pallida idea di quando potremmo portarli a casa. Accidenti, questo no, io capisco che quando si va a trovare anche nelle residenze sanitarie, per esempio gli anziani, bisogna stare, come dire, separati. Il problema, ci spiega Anna, ci ha spiegato anche l'altra volta, che qui abbiamo a che fare con la disabilità mentale. E quindi persone che magari, come il suo Gianluca, non riescono a percepire il perché ci debba essere un vetro. Non lo so, capisce la situazione, Anna, vostro figlio? No, non credo che possa capire il virus cos'è. Capisce che i genitori non va nessuno come il solito, ma certamente è disturbato dal fatto, infatti Gianluca non chiede più quando mi vede quando è che vengo a casa, non me lo chiede più, tanto non lo portiamo a casa, quindi per me quando esco dalla visita è una disperazione, perché non penso si senta abbandonato perché lo vediamo il sabato mezz'ora, però a lui mancano tutte le sue cose, visto che considerato che è stato inserito, tra l'altro apro una parentesi, di RSD non si parla mai, ci si ferma solo all'RSA, sì. Ma come può un ragazzo che ha vissuto sempre la sua vita, facendo sempre le stesse cose, usando sempre... come può farglielo capire? Per fortuna che abbiamo degli educatori che sono eccezionali. No, ma degli Anna, altri. Guardi, facciamo così, ci tenga aggiornati, tanto anche l'altra volta è ovvio che non è che ci sia una risposta facile, perché uno può dire fate in modo che si rivedano, che si abbraccino, in questa situazione è complicato. Noi torneremo a capire anche con magari il direttore, chiameremo della struttura, l'altra volta sono stati molto gentili a capire come va. Grazie Anna, torniamo su questa vicenda. C'è Vincenzo da Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Milan, sì. Che piacere parlare. Senta, io volevo parlare della questione appunto dei dipendenti pubblici, sì. Che come al solito esce fuori ogni volta che rivendichiamo. C'è uno sciopero. Lei è dipendente pubblico? Sì. Voglio dire, i parlamentari che sono creati addirittura un fondo di 800.000 euro nel 2021, 400 nel 2022. Non si sono tagliati di un euro lo stipendio, anzi chi vabbè, ma non aveva, cioè, perché vabbè, sì, la solita guerra infatti la solita guerra de... Però quello che voglio dire io, cioè, io per esempio io prendo 1200 euro al mese, sì. Cioè, molti non lo sanno, io se volessi comprarmi una casa non posso farlo perché il mio TFR praticamente è solo figurato. Cioè abbiamo un trattamento economico veramente da sì, sì, ma però Vincenzo, certo, e su questo non c'è dubbio, tra l'altro bloccato da anni con degli scatti molto molto miseri, uso proprio questo aggettivo. Sa cosa, Vincenzo, cioè si crea adesso questa tensione tra quelli che sarebbero i tutelati comunque, perché avrà certamente più garanzie lei di un precario, uno che a marzo, quando i licenziamenti saranno sbloccati, rischia di perdere il posto di lavoro da un giorno all'altro. E quindi in questa situazione purtroppo al ribasso di difficoltà così diffusa si crea questa guerra dei poveri, sì, che, diciamo, che è sbagliatissima. Infatti io l'invito che ho fatto all'inizio, non vedetelo come una come dire il dipendente che non è statale quindi si sente meno tutelato dal punto di vista contrattuale, ce l'ha adesso con gli statali perché dicono ma cosa scioperate voi, avranno anche ragione a scioperare, 1200 euro al mese non è uno stipendio eccezionale. Però in questo momento stride un po', ecco, questo sciopero fatica ad essere digerito da chi magari il lavoro l'ha perso o lo perderà a breve, ecco, tutto qua. In ogni caso, grazie. La polemica è stata fatta sul 9 soprattutto, sì, no? E poi anche il 9, certo, loro dicono giustamente se uno sciopera perde lo stipendio, quindi certo. perde la giornata lavorativa, però messo il 9 suona un po' come un lungo ponte. Vabbè. Anche se poi è festa solo a Milano oggi. È festa a Milano, ma c'è molta gente che è riuscita a agganciare magari un giorno di ferie e si prende e si fa il ponte. Che sì, poi sì. Ponte, ma dove vai? A casa. Stai a casa. Io fai un giro sul pianerottolo. E 3 mesi fa cosa facevi? A casa. A casa. E tra non due so, mesi fa. E a Natale a casa. Sentire Crisanti, Crisanti anche tra un anno a casa. Vabbè, dopo il traffico. Sorpresona. Uno, nessuno, 100 Milan. Veronica, il pe. Se non mi sbaglio, stavi in via canonica. Il pe. Dicevi sempre io voglio farmi monaca. E intanto bestemmiavi contro i preti. Più Veronica meno Milan. Più Veronica meno Milan. Fingesti per me. C'era un tempo, Leonardo, maniera in cui la introducevamo così con Enzo Iannacci. Ebbene sì, vero. No, dillo tu, Leonardo. A te l'onore. Eh beh, è tornata dopo alcuni anni di assenza, credo 3. Sì. Veronica Gentili! Mamma mia, che emozione! Te la ricordi gli annacci, Veronica? Quando... Come posso dimenticare? Mai! Alle 6:30. Ma davvero venivi introdotta con questa canzone? Sì, certo. Sai che non ricordo. Capito? Pensa quante me ne avete fatte, Leo. Non è molto gentile, gentile introdurre questa canzone. In caserma era niente, io ho fatto un anno così, ma ragazzi, tu. Cioè, ma di che parliamo? Lì è stato il mio Vietnam, capito? Il mio servizio militare. Ecco, io ho fatto tutto. Ecco. Allora, intanto, ma scusa, sono le 10:20, cioè ieri sei andata in onda alle ore 10 in punto. Escono. Com'è andata ieri, Veronica? Bene, molto bene. Abbiamo appena visto gli ascolti, abbiamo fatto il 4-4-1 e siamo molto contenti. Andata bene perché la domenica, come sapete, c'è la lotta nel fango perché sì. Siamo tutti i programmi di informazione del mondo Giletti, Fazio, poi comincia la D'Urso che noi siamo ancora in onda, insomma. Poi c'è il calcio, infatti noi volevamo farti un'intervista tutta sul calcio, tu abbiamo detto sei molto ferrata di calcio. Beh, quindi... lo sai, insomma, poi questi due anni io me li sono presi sabbatici per studiare, no? Perché ho detto adesso quando torno io voglio avere la situazione in pugno, capito? No, tra l'altro, allora io adesso ho qui un libro che ti riguarda, direi, però prima ti voglio fare questa domanda. No, prima voglio farti una domanda, perché tu adesso giustamente segui molto la politica, molto più di me, perché io mi occupo grazie a Dio di altro. No, però è una settimana davvero delicata adesso. Non ironizziamo sulla settimana decisiva, questa narrazione che sembra un po'. Però cosa può succedere questa settimana che tu racconterai? Allora, io non credo che possa accadere veramente un incidente per cui dici cade il governo perché non si arriva ai numeri parlamentari. Cioè il voto importante è quello del 9, che è il voto sul MES, sulla riforma del Fondo Salva Stati, e lì siccome non serve una maggioranza qualificata, cioè serve una maggioranza normale, con i numeri verosimilmente ci arriveranno. Il problema è che oltre ad arrivarci con i numeri arrivano pure in Europa, però dopo questo balletto. Quindi Conte arriva con i parlamentari del PD che hanno chiesto le firme perché non va bene il DPCM e vogliono i ricongiungimenti. Quelli dei 5 Stelle a cui non sta bene il voto sul MES, sul Fondo Salva Stati, e quelli di Italia Viva a cui non va bene né la cosa dei comuni né il voto sul MES sanitario. Quindi non è proprio una situazione idilliaca. Il tema è capire se conviene in questo momento una crisi di governo, le eventuali nuove elezioni, insomma. Infatti c'è sempre sopra lo spauracchio di Mattarella che giustamente dice vabbè, allora se vogliamo far così io vi dico che però torniamo a votare, perché poi la sensazione è anche quella che si possa dire tutto quello che si vuole fino a che non c'è qualcuno che dall'altro dice ok, abbiamo scherzato, perché in questo momento con 209 miliardi da prendere, il rischio terza ondata, tu fai una crisi di governo? Sì. Insomma. Esatto. Allora, oh caro Leonardo, io l'ho letto adesso ho già il regalo per Natale per il buon Leonardo. L'hai letto adesso in che senso? No, pausa adesso. No, ho detto capito, l'ho letto. Ma cosa ha detto Leonardo? Non l'ha nemmeno letto e lo dice. E adesso ho il regalo di Natale per Leonardo Manera. Gli Immutabili di Veronica Gentili, edito dalla Nave di Teseo. Hai scritto un diario. È la storia di Alessandro Milan e Leonardo Manera. No, è chiaro, no, dal questo titolo trapela, no? Infatti ti volevo chiedere, è molto interessante perché hai scritto un diario di questo del precedente lockdown e spesso si diceva si uscirà meglio, si uscirà peggio. Io penso che ne usciremo come eravamo prima, ma in maniera accentuata. I buoni saranno più buoni, i cattivi saranno più cattivi. O saremo immutabili? Come ne usciremo da questa? Vedi che hai sintetizzato perché il titolo immutabile, nel senso che sì, c'è stata, no, tutta l'ondata degli hashtag di cui tu ti intendi bene, saremo migliori, andrà tutto bene, no, tutte le cose su Twitter, ecco. Tutta questa cosa è stata una grande ondata perché a un certo punto sembrava che fosse un episodio unico nella storia, che dovesse durare un tot di tempo e fosse un po' come, no, la caduta del muro di Berlino, le torri gemelle, cioè che fossero quegli episodi definitivi. Mano a mano che si trascinava questa pandemia, sono passate le settimane, i mesi, e noi gradualmente ci siamo abituati, siamo entrati, no, in uno stato, quella che si chiama convivenza col virus, che ci siamo detti tanto a lungo, ecco, abbiamo veramente iniziato a convivere col virus, quindi essendo l'essere umano abituato ad abituarsi, appunto, cioè la sua tendenza è quella a entrare ci adattiamo anche al peggio purtroppo. In una però familiarità esserci... anche con la guerra però cominciano ad esserci anche tante manifestazioni di insofferenza. È verissimo gente questo, ma è vero Leo, questo dal punto di vista dell'arrabbiatura, dell'insofferenza anche per quelle che sono le difficoltà economiche, tutto questo è assolutamente vero. Quello che io intendo è che dal punto di vista della mutazione proprio genetico-esistenziale, cioè dice abbiamo vissuto un trauma e quindi questo ci ha cambiati, ci cambia proprio come specie umana, questo non succede perché... Io quello che dico nel libro è che abbiamo avuto una nostra chance con la storia, S maiuscola, E poi mano a mano che l'evento non era circoscritto nel tempo e subentrava una lassità diversa nel modo di viverlo, ci siamo abituati e è diventata cronaca e il racconto giornalistico, no? Io ho fatto quest'estate 99 puntate consecutive, vedevo come gradualmente ci abituavamo, ci vaccinavamo anche dal punto di vista proprio percettivo a quello che stavamo vivendo, non c'era più quella eccezionalità e straordinarietà e l'epica, no? Tutta la componente, la nostra odissea, se n'è andata, sono rimasti i drammi individuali, le piccole tragedie dentro i salotti domestici, ma non è rimasta più quella componente di assoluto che vedevamo nella prima parte. Ma forse infatti non possiamo fare un assoluto, una dichiarazione assoluta di che cosa impareremo da questa vicenda, però cosa hai imparato tu allora da questo lockdown, visto che l'hai raccontato giorno per giorno, come ne sei uscita alla fine di tutto questo? Io nel libro esco ed entro dalle mura di casa, perché poi, come voi sapete bene, essendo una pagliaccia, il libro è anche molto così leggero, ironico, certo, a tratti, sì, perché io racconto tutto quello che vedo fuori, lo racconto da casa, da tutto, da come fai la spesa, dalla cyclette che ritiri fuori ed era una specie di trabiccolo inutilizzato tenuto in cantina, no? E invece diventa l'oggetto del desiderio dentro casa, cioè c'è tutto questo aspetto qui e poi invece c'è attraverso questo sguardo guardare il mondo fuori. Io quello che ti posso dire è che una delle cose che evinco di noi esseri umani è che poi abbiamo in questo nostro essere così infantili, per molti versi tracotanti, quindi proprio come approccio di specie, lì c'è il nostro vizio e la nostra virtù, perché da un lato non cambiamo, siamo immutabili, dall'altro siamo quelli che nei secoli dei secoli, no, da quando abbiamo morso la mela, andiamo avanti in maniera anche un po' impudente, ma è quella che ci permette di sopravvivere poi. E quindi se da un lato non siamo cambiati, dall'altro uno dice, beh, per fortuna, perché troviamo sempre il modo di cavarcela. In ogni caso, ragazzi, io l'ho letto, punto. Adesso hai tocca detto che, no, hai detto, l'ho letto adesso, se hai tu dato non una sbirciata nella pausa. Se tu non sei in grado di cogliere la sintassi e la punteggiatura quando uno parla, caro Leonardo, litighiamo così. Comunque, Veronica. Scusami, Leo, mentre prendevate il caffè prima, no? Durante la pausa. Ma lui è a casa, ma che caffè? Ma Veronica, ma lui sta a casa da 6 mesi, ma questo anche quando finisce il lockdown l'ultimo giapponese a casa, gli diranno tra 20 anni, Leo, è finita, puoi uscire, lui no, sto ancora un po' a casa, così. Leo, l'alibi è perfetto, non devi più arrivare affannato lì in radio. Esatto, questo è l'unico vantaggio. Veronica, tu che hai a che fare sempre con politici, non hai l'impressione che a quelli che impongono a noi tutte queste restrizioni manchi un po' di empatia nella comunicazione? Certo che sì, ma guarda, la comunicazione è stato uno dei punti fragili secondo me di tutto questo, di questa fase, perché quello che è vero è che mentre i sacrifici sono necessari, è giusto proprio da un punto di vista di solidarietà gli uni con gli altri, quando poi tu pensi a tutti gli errori invece che vengono fatti dalla politica e al modo in cui ti vengono richiesti i sacrifici, è chiaro che ti sale la rabbia, perché dici, beh, ma in realtà i tamponi, la gestione, l'organizzazione dei trasporti pubblici la dovevi fare tu. Ora che tu venga a dire a me in maniera, no, intimidatoria, che io devo stare a casa quando tutta una serie di cose avresti dovuto organizzarle prima, è evidente che mi infastidisco, sì. Quindi assolutamente sì. Purtroppo però poi se uno non rispetta le regole, siamo noi che ce la prendiamo in saccoccia, così detto. Sì. Allora, Gli Immutabili di Veronica Gentili per La Nave di Teseo, meglio la TV o la radio? Domanda finale, veramente pessima. L'ho studiata. Quanto la prepari? Invece di leggere il libro, leggevi un rigo e tiravi sulla testa. Da 3 giorni. Sai che non lo so, è molto difficile come domanda, perché la radio magari cerchi, no, di rimuoverla come Gli Immutabili, poi appena ti ritorna su risale la pesta. Eccola. Io una risposta ce l'avrei per quanto riguarda me, ecco. Se dovessi dare una risposta. Io ce l'avrei. Leonardo, meglio la TV o la radio? Quella che paga meglio. Questa è la risposta che darei io. Se la domanda venisse fatta. Allora la TV. Lo vedi, allora, che quando mi perdo nei massimi sistemi deve sempre tornarmi in mente il pragmatismo di Manera. Ma è certo, la chiave, capito? Certo. L'ha detto anche con un tono polemico che subito gireremo al direttore del personale, ovviamente. È evidente che li ho sentito. Sì, è chiaro. Grazie Veronica, un grande abbraccio, ovviamente. Grazie su Rete4 potete vederla anche, ma potete anche leggere il suo libro. Caro Leonardo, dobbiamo andare alla borsa. 1, nessuno, 100 Milan. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. Veronica, sei pronta a candidarti? I just walked in to find you here without that look upon your face. Milan, buongiorno. Ma tu pensi che veramente si vada a nuove votazioni? Il governo non cade se noi 5 Stelle, il 60% di loro, rimane a casa. Allora, alle 10:38 minuti, Leonardo, ti volevo chiedere una cosa. Cosa ne pensi? Non ne abbiamo parlato prima, quindi adesso ti verrai colto impreparato. Cosa ne pensi di questa Netflix della cultura annunciata dal ministro Franceschini? Nel senso che 10 milioni di euro per rilanciare la cultura, vabbè, a parte che magari è un modo per recuperare dei fondi europei, però ma guarda, la mia risposta è che adesso stasera c'è la prima della Scala che verrà trasmessa in televisione e anche in streaming con grandi cantanti lirici e anche attori importanti. Secondo me sarebbe importante che venissero in questa Netflix della cultura, venissero inclusi anche quelli meno conosciuti, perché il problema vero non è per chi è già noto, che probabilmente è già milionario e non ha problemi economici. È stata fatta un'iniziativa da parte di un comico amico, si chiama Eugenio Chiocchi, per sollecitare il Ministero della Cultura a dare delle possibilità di creare delle puntate zero di programmi televisivi anche famosi, a quelli che non... perché il problema grosso è per quelli, però non è c'è che... anche il grande tema, per esempio molti fanno, oggi ne scrive Tommaso Montanari sul Fatto Quotidiano, per esempio il teatro in TV non è la stessa cosa, no? Ce lo insegni tu, il teatro in TV non funziona mai, ecco, però si possono fare dei compromessi, cioè si possono cercare delle strade che, pur mantenendo diciamo la struttura teatrale, siano più fruibili per il pubblico televisivo. E il problema vero è per tutti quelli che già non sono noti, non sono famosi, e sono loro che in qualche modo vanno aiutati, e alcuni di loro sono, come si dice, la canna del gas. Ecco, quindi questo Netflix della cultura andrebbe promosso anche a sostegno di tutti gli altri. Vedremo. Intanto. Perché, parentesi, al di là di tutti quelli bravi, eccetera, che però già sono conosciuti, ce ne sono migliaia, e io ne conosco tanti, per esempio nel mio settore della comicità, che sono comici molto bravi, che funzionerebbero anche in TV, ma che per un motivo o per l'altro non hanno avuto la possibilità di farsi conoscere. Ma non è che chi non pochi. È no, noto chiaro. Automaticamente non è un cane, anzi, spesso non è così, è il contrario qualche volta. Allora, in tutto questo, ma scusa, ma vogliamo fare la chiamata del nostra del lunedì? Ma scusa, ma il tuo Milan sta andando a gonfie vele. Ma finché siamo lì davanti, facciamola la chiamata a Mariona Di Nolfi. Vediamo solo se suona. Ormai, vediamo se è ancora voglia di rispondere. Tanto ormai ha capito, no? Ha capito che lo chiamiamo, siamo noi. Sempre meno 6, ovviamente. Lo accogliamo così, vediamo se. Pronto? Meno 6. Ma non fa dei ponti? No, meno 6. Sant'Ambrose. Dillo bene in milanese, com'è che si dice? Sant'Ambrose. Ti sei attorcigliata la lì? Sant'Ambrose. Vabbè. State sotto la pioggia da una settimana, sono venuto a Milano. Sì. Meno 6. Guarda, sì. Ti tiro su di morale così. Secondo palo c'è Ronaldo. Il cross arriva Bonucci. Ecco. Di testa. Allora. Il colpo vincente. Certo, che io mi chiedevo questo. Bonucci. Essere tifoso del Torino è veramente una sofferenza di quelle che... Sfiga, hai detto tu. Io dico, è una sofferenza di quelle. Sì, attaccata sulla groppa, che no, facendo? No, no, no, no, non come dire così. Di coppo, accoppato no, dalla spiga. Non dire così, non dire così. Saluto i miei amici Granata e no, ti favo per loro. Comunque, meno 6, ecco, cosa dobbiamo comunque, dire? Comunque, sì, sono sempre 50 anni però, Milan, eh? Sì. Ha compiuto 50 anni, anni da ascoltatori? Sì, sì, ho compiuto 50 anni, vabbè, sì, si e può. Il regalo te l'ha portato il capitano rosso-nero Leo Bonucci, ecco, te l'ha recapitato così. Ecco, guarda, ti ha fatto del faccino facendo così. Leonardo, diglielo tu, l'altro, noi abbiamo l'altro Leo, Leo, vai tu Leo. Da, dicevo che per la Juventus più che il meno 6 è preoccupante il gioco, perché Latita, Pirlo vorrebbe dare un gioco così e più, più ragionato forse. Spiegato, abbiamo il problema di Pirlo, no, che peraltro ha giocato pure nel Milan, quindi sicuramente ha avuto degli delle scorie che sono rimaste vabbè, in tutto questo però Paramigos si ritorna in Serie B, io te l'ho chiesto anche su Twitter, così una cosa Paramigos. Ho appena dichiarato a Canale 5 che Paratici ha semplicemente un 371 bis, quindi un avviso di garanzia per false dichiarazioni al PM, che non ha niente a che fare con l'esame acchittato dai quei terziari di Perugini, che non, con cui noi non c'entriamo niente, niente, niente. Cioè, come secondo te, adesso al di là del centrale, no, secondo te Suarez perché è venuto a Perugia a fare questo esame? Cioè, così perché... per prendere 10 milioni di euro a stagione visto l'ingaggio proposto dalla Juventus? Appunto, una motivazione sufficiente. Appunto, cioè, era venuto, verità, era venuto, cioè, era venuto per la Juve, cioè non è che era se venuto. Il Suarez doveva venire a fare le pizze in Italia. Sì. 500 euro certificato glielo davano comunque. Perché la storia dei certificati c'è, il certificato di lingua italiana ci racconta che basta pagare 500 euro. Splendida inchiesta fatta dai magistrati milanesi, chiusa nel luglio del 2020, e il certificatino ti arriva, pure se parli congolese stretto, diciamo. Quindi, diciamo che la vicenda ha forse scoperchiato, spero, ha scoperchiato un verminaio, mi sembra giusto, bel vaso di Pandora, ma quindi è un bene, diciamo. È un bene, no, è un bene, ode alla Juve, ode alla Juve, ode alla Juve, la Juve fa bene alla società, certo. Come sì, vedi, vedi questi juventini in grado di rigirare veramente la frittata in modo indegno, dispiace che un uomo per bene come Adinolfi si debba piegare a queste logiche in nome della sua fede calcistica. Piace però che Manera e Milan stiano riconoscendo l'atto benefico compiuto dalla Juve alla società italiana. Insomma, la Juve aiuta la giustizia, fa progredire la giustizia italiana. Io a questo punto ho una proposta di mandare Paratici a condurre report, visto che insomma serve a smascherare. Oppure ministro al posto della De Micheli, ministro. Oppure PM, visto che fa progredire la giustizia. Ma dai, si scherza. Va bene, Marione, mi fai un pronostico come facevi quando parlavi di politica? Qua, nel senso, ma se vuoi, una volta ne parliamo, cade il governo o non cade il governo? Non cade il governo, come sapete bene, sono gli scappati di casa, dove vanno? Cioè, devono incassare ancora, aspetta, fammi fare il conto, perché io ho fatto il deputato, quindi so alla lira più o meno quanto devono incassare, restano 350.000 euro, no, non cade il governo. No, no, vabbè, c'è un'analisi, concludiamo con questo editoriale di Adinolfi, devono incassare 350.000 euro, fino a fine legislatura, no, quindi il governo rimane ancora, non cade, va bene, grazie, è tutto chiaro, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the te la ricordi la lite condominiale che ci aveva mandato un ascoltatore, caro Leonardo, che era andato giù. No, dai. Cosa urlate tutto il giorno ai numeri? Ti aveva fatto molto ridere, vabbè. Niente, allora, ma perché chiedere della crisi di governo ad Adinolfi? Dimenticavo che abbiamo in conclusione di puntata il ministro Bonetti, che saluto. Ministro, buongiorno e grazie di essere qui, ministro. Buongiorno. Grazie a voi, grazie per l'ospitalità. Io, insomma, la ringrazio per la domanda. Sì, non l'ho ancora fatta. Ma è diritto rispondere così. Bene, cioè lei si presenta dicendo grazie per la domanda. Vabbè, se vuole le chiedo magari dopo del governo, se regge o no, però c'è il nuovo DPCM che è stato approvato, ecco, magari se ci dà qualche lume a riguardo, caro ministro, sia sintetico se possibile e chiaro, come sempre. Naturalmente, grazie. Come sempre. Per prima cosa vorrei precisare che, pur non volendo disconoscere all'istituzione il dovere di non ingerenza, le posizioni che dobbiamo prendere in considerazione sono da identificare non tanto in diritti irrefragabili, il cui esercizio prescinde dall'adozione di atti permissivi del governo, ma in situazioni giuridiche suscettibili di trasformazioni a seguito di atti pimpererei. Ed è per questo che voglio evidenziare l'utilità imprescindibile della funzione sanzionatoria al netto delle responsabilità individuali, che rimane un pilastro fondativo della nostra Costituzione. E con questo cosa voglio dire? Che nel nuovo DPCM, che entrerà in vigore da domani, verrà introdotto il divieto di mettere nel latte due biscotti alla volta. Ma questo per evitare assembramenti nella tazza. Ma cosa c'entra? Rimane altresì valida la raccomandazione di lavare con il sapone i biscotti per almeno 60 secondi prima di metterli in bocca. Ma no. O di usare una soluzione alcolica, che di certo può essere anche molto utile per sopportare i bambini a casa da scuola. Sono consapevole che lavare i biscotti è un sacrificio, ma questo piccolo gesto ci aiuterà a combattere il virus in modo deciso. Lo voglio dire con forza. Noi non lasceremo indietro nessuno e con l'impegno di tutti ne usciremo. Coi biscotti. Purtroppo questo virus corre molto velocemente, corre questo virus anche se non ha le scarpe da runner. Per questo motivo, alla luce di un'attenta e realistica considerazione del delicato equilibrio sul quale si regge il sistema paese e considerando il sostanziale appiattimento o comunque la diminuzione della curva epidemiologica, possiamo pensare di adottare un approccio programmatico capace di estrinsecare la non attuabilità dei contenuti normativi in relazione alle nuove istanze dominanti da valutare in prospettiva, soprattutto nell'ottica di una visione che deve necessariamente diventare bambalopecica. Quindi, cos'è che diventare? No, bambalopecica. Scusi, perché c'è Pietro Lacorte in regia che non ha capito molto l'ultima fase della sua dichiarazione, per il resto una chiaro. Visione che deve necessariamente una visione diventare bambalopecica. Quindi, partendo da un'attenta valutazione dei 21 parametri decisi dal Ministero della Salute insieme al Consiglio Superiore della Sanità, vado a elencare le attività produttive che rimarranno aperte con il prossimo DPCM anche nei giorni di Natale. Ti prendo la penna, ministro, perché poi gli ascoltatori mi chiedono, prego. Eccoci qua. Prego, sono pronto. Torrefazioni. Dove rimane consentita la vendita di cioccolatini fondenti ma non al latte. Perché? Scusi. Negozi di caccia e pesca. Ah, non c'è un perché. Purché anche il proprietario indossi il gilet con le tasche. E infine negozi di abbigliamento con i camerini senza luce al neon che danno un aspetto emaciato. Sono scelte di buon senso, dice, e crediamo possano aiutarci a contenere l'epidemia anche dal punto di vista della pistuzia restivante. Di vorrei che cosa? Approfittare in questo momento per aggiungere una cosa. Posso? Sì, prego. Posso, ministro. Sì, prego. Cercherò di essere breve. In un contesto di forte disorientamento occorre ripristinare la puntuale corrispondenza tra obiettivi e risorse alla luce di una crescente complessità normativa determinata dalle evoluzioni in atto. Pertanto, pur non assumendo mai come implicita la riconversione e articolazione periferica dei servizi, auspicando un corretto rapporto tra struttura e sovrastruttura a monte e a valle della situazione contingente, abbiamo introdotto nel nuovo DPCM un provvedimento che vieterà anche ai conviventi di passarsi il telecomando per decidere cosa guardare. Ma perché quindi questa cosa? Vale la regola che il primo che prende il telecomando lo vince. Tiene tutta la sera. Questo c'è da sempre, insomma. Con l'obbligo di portarlo sempre con sé anche per andare in bagno. Perché sennò uno... In caso di controllo sì. Ma si dovrà dichiarare di avere delle forze competenti, delle forze dell'ordine, sì. Si dovrà dichiarare di avere con sé il telecomando. Sarà cura poi dell'autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa sì. Con okay. L'adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni. Sì. Abbiamo già pronti 70.000 esponenti delle forze dell'ordine per verificare se sì. Queste raccomandazioni sul telecomando vengano effettivamente tutto questo, messe ministro, in Consiglio dei Ministri in voi discutete di queste cose, insomma, per prendere provvedimenti per il bene degli italiani. Naturalmente sì. Per arginare l'evoluzione della curva sì. Epidemiologica. So che stiamo chiedendo ancora sacrifici, ma non c'è altra strada. Niente, se vogliamo se piegare questa. La curva. No, lo dico anche, lo dico anche sì, sì. A Mauro Meazza che è apparso, il ministro Bonetti ci sta dicendo, ci può ridire a beneficio di Mauro Meazza gli esercizi commerciali che rimangono aperti grazie all'ultimo DPCM, ministro Bonetti? Torrefazioni, dove rimane consentita la vendita di cioccolatini fondenti ma non al latte. Non si sa perché. E sono i più amati dai bambini. Vabbè. E quindi sono poi... i più portati a diffondere. Negozi di caccia e pesca, purché anche il proprietario indossi il gilet con le tasche. Con le tasche, e poi? E infine, negozi di abbigliamento con i camerini senza luci al neon che danno un aspetto emaciato. Tutto questo per contrastare la diffusione del virus. L'evoluzione della curva epidemiologica e naturalmente l'obbligo di tenere anche tra conviventi il telecomando sì, con certo. Sé per tutta la sempre sera. Con l'obiettivo, allora, caro ministro, di non lasciare indietro nessuno. Che questa è l'Italia, è il paese che amo, è il paese che amiamo. E allora dico, vabbè, rinunciamo a fare zapping oggi per fare più zapping domani. Va bene, la ringraziamo ministro Bonetti. Io spero sia stato tutto chiaro. C'era qualche termine che magari sfuggiva un po' ai nostri ascoltatori, ma lo approfondiremo magari la prossima volta col ministro. Vabbè, mi dica solo in un secondo se cade il governo o no, visto che lei fa il ministro. Cade il governo o no questa settimana, ministro Bonetti? La ringrazio per la domanda. Sì. Purtroppo, no, per questo motivo, no, alla luce di un'attenta no. E realistica considerazione... No, no, guardi ministro, scusi, non, era solo un sì o un no, mi dispiace, non abbiamo più tempo, ci troviamo domani. No, domani no. Uno, nessuno,